Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno a tutti, iniziamo questa seconda puntata di Fabbrica 2.4 con una conversazione con l'ingegnere Valerio Battista, che è l'amministratore delegato di Prysmian. Prysmian è la seconda realtà manifatturiera privata italiana. La prima è il gruppo Rocca, che ha 25 miliardi di euro di fatturato in giro per il mondo e 60.000 dipendenti, attraverso controllate come Techint, Tenaris, Dalmine, Tenova e varie altre. La seconda è Prysmian, che è il leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, fa 7 miliardi di euro di fatturato in 50 paesi con 89 stabilimenti e 19.000 dipendenti, 2.000 dei quali sono in Italia. Certo, se stiamo a guardare gli ordini di grandezza in valore assoluto, la prima azienda manifatturiera è l'ENI con 114 miliardi di euro di fatturato, segue la Fiat con 86 miliardi, l'Enel con 78 e Finmeccanica con 16. Però stiamo parlando di aziende che o hanno già la sede all'estero come la Fiat, oppure sono aziende a partecipazione pubblica. Se guardiamo quelle private, prima Rocca, seconda Prysmian. Oltre a questo, Prysmian ha anche un altro primato, è la prima grande public company italiana. Non esiste un azionista di maggioranza, ci sono tutti piccoli azionisti che hanno quote che arrivano al massimo, poi l'ingegnere ce lo dirà, al 6%, ma anche quote molto piccole, 0,3-0,4. Ciò nonostante, l'azienda ha un tasso di crescita veramente significativo. Verrebbe da chiedergli, e glielo chiederemo, se alla fine il padrone non serve. Ingegnere Battista, com'è cambiata Prysmian, che un tempo era la vecchia Pirelli Cavi e Sistemi, in questi anni? Innanzitutto buongiorno a tutti. Com'è cambiata? È cambiata tanto, perché dal momento dello spin-off da Pirelli, della Pirelli Cavi, che è poi diventata Prysmian 10 anni fa esattamente, il 28 luglio del 2005, la società ha cambiato completamente pelle. Prima di tutto gli azionisti, Goldman Sachs, che ha fatto l'LBO, poi è uscita, lasciando le azioni in mano a una pletora di azionisti, fondamentalmente investitori finanziari, ma anche privati cittadini, che chiaramente hanno rilevato il capitale. La società ha continuato a crescere, è una delle poche società italiane che è stata in grado nel 2011 di permettersi di fare un'acquisizione di un gruppo internazionale con base in Olanda, che è il gruppo Draka, e di consolidarlo continuando a crescere per linee esterne. Perché per linee esterne? Perché nel mercato dei cavi chiaramente la capacità è già abbastanza elevata, la crescita c'è ma non è certo a doppia digit, e quindi la crescita significativa si può fare solo attraverso acquisizioni e consolidamento dei mercati. Io poi ho guardato i vostri bilanci, voi avete una cassa significativa, quindi siccome siete anche una public company, se non spendete questi soldi per fare acquisizioni, rischiate che qualcuno vi compri per prendersi questa interessante liquidità che avete in cassa. Se mi posso permettere, la liquidità in realtà ce l'abbiamo come linee di credito, però la posizione finanziaria netta della società l'anno scorso a dicembre era negativa per circa 800 milioni. Quindi la società ha dei debiti, non ne ha così tanti perché ha una leva sull'EBITDA che è poco più di uno, quindi si può permettere, ha un bilancio solido più che a sufficienza per fare ulteriori acquisizioni. EBITDA del 7,8%, visto? Sì, dell'8% è circa 600 milioni. Fabbrica 2.4. Rieccoci insieme, stavamo facendo un colloquio con l'ingegner Valerio Battista, numero uno di Prysmian, che è la seconda manifattura privata italiana, e la domanda era se la società, che fattura 7 miliardi di euro e ha un EBITDA molto generoso, è a rischio di essere acquisita. Beh, diciamo che per essere acquisita comunque chi dovesse fare un'OPA, oltre a comprare il capitale, deve comprare e quindi caricarsi anche di una parte dei debiti. Certo, il nostro claim è viaggio nell'industria che cambia. Ecco, come cambierà Prysmian in futuro? E allora io credo che la società debba continuare a crescere nel proprio settore. Io mi sono confrontato anche con alcuni dei più importanti azionisti e ritengono che quando un'azienda sa fare bene un mestiere deve continuare a fare quello. Ragion per cui essere ancora più grandi e magari più profittevoli nel mercato nel quale si riesce ad eccellere. Questa è la missione che riteniamo di dover seguire. Cosa significa? Significa praticamente generare cassa lavorando tutti i giorni e poi con questa cassa, una volta raggiunto un certo livello, fare ulteriori acquisizioni e integrazioni di un mercato che ancora oggi è abbastanza frammentato. Insomma, continuerete a fare acquisizioni se ci saranno condizioni interessanti? Certamente, solo e se ci saranno condizioni interessanti e target interessanti. È chiaro che le acquisizioni devono essere geograficamente e per segmento di business perfettamente allineate alle necessità della crescita dell'azienda. Ecco, il nostro focus sono le fabbriche, e quindi vorrei chiedere a lei, che appunto è un esponente di una realtà manifatturiera e produttiva così importante, le vostre fabbriche come stanno cambiando nella loro organizzazione e disposizione? Anche nelle fabbriche, vede, questo è un mondo che è nato abbastanza industrialmente vicino all'utilizzo, perché i cavi sono tendenzialmente pesanti e quindi il loro trasporto è abbastanza impegnativo dal punto di vista economico. Ragion per cui la frammentazione delle fabbriche è elevatissima. Noi stessi abbiamo circa 90 stabilimenti in giro per il mondo, perché non si può avere dei grandi centri di produzione dai quali puoi smistare in giro per il mondo, in quanto il contenuto manodopera, quindi le ore di lavoro per produrre un cavo, non sono altissime e il costo del trasporto del cavo è invece molto, molto elevato. Ecco perché tutti i paesi hanno molte fabbriche, o quasi tutti, hanno molte fabbriche di produzione di cavi. Comprando altri gruppi e integrandoli ci si ritrova chiaramente con un numero di fabbriche elevato. A questo punto il lavoro da fare, e che noi stiamo facendo, è quello di ridurre il numero di stabilimenti per area geografica, per paese, concentrando di più la capacità nelle eccellenze, nelle fabbriche eccellenti. Parliamo del settore telecom, che genera il 20% dei vostri ricavi, mentre invece l'80% sono più che altro cavi e sistemi per l'energia. E in passato aveva scarsa redditività per voi, c'era un notevole disequilibrio tra la redditività dei cavi e dei sistemi per l'energia e quella del telecom. Ho visto dalla vostra trimestrale che la redditività del settore telecom per voi è in ripresa, forse perché il mercato sta andando meglio e forse perché, integrando Draca, oltre alla produzione del cavo avete anche la produzione della fibra che ci sta dentro, che un tempo facevate di meno. Ci può spiegare quali sono queste dinamiche? Beh, sicuramente il settore telecom per i cavi è quasi un decimo come mercato del mercato dell'energia, questo a livello globale, quindi il nostro rapporto 20% sul totale del fatturato non è un rapporto che sia strano. No, è la redditività che mi interessa. La redditività che cambia. Perché cambia la redditività? Perché il settore telecom è un settore molto più dinamico, meno regolamentato dalle norme nazionali e internazionali, molto più aperto invece all'innovazione, perché i clienti sono molto più liberi di investire nelle reti come e con i prodotti che preferiscono. Questo consente alle aziende partecipanti a questo tipo di business quindi di offrire ai clienti prodotti innovativi, prodotti diversi, prodotti che facilitano la rete, il sistema di rete del cliente e che il cliente poi chiaramente è anche disponibile a pagare. Ecco, in Italia c'è un problema di deficit della banda ultralarga. Mentre ormai internet ha raggiunto il 96,9% della popolazione, la banda a 30 megabyte per secondo ha raggiunto solo il 22,3% della popolazione, contro l'Europa che vede il 64% della popolazione. Quella ultra larga, cioè 100 megabyte per secondo, solo il 2,4% della popolazione, contro una media europea del 6%. Ora, avere la banda così larga non è solo una sorta di passione viziosa degli appassionati di tecnologia, ma si lega anche al nuovo modo di fare fabbrica che richiede sempre di più la trasmissione di megadati. E tant'è che lo fanno tutti, lo fanno anche in Australia, mi dicevano che c'era un piano per raggiungere raggiungere la maggior parte della popolazione australiana con la banda ultralarga. Voi state partendo anche con una campagna di comunicazione che avrà come claim l'Italia mostra la sua vera fibra, e ci tenete a sottolineare la necessità di colmare questo gap. Può spiegare bene il vostro punto di vista? Allora, è chiaro che l'Italia in generale è uno dei paesi occidentali europei più indietro nella penetrazione della banda larga in Europa. Questo è un dato di fatto, purtroppo, perché gli investimenti in banda ultralarga o banda larga sono stati limitati negli ultimi 20 anni almeno. Come conseguenza di questo, la popolazione si trova ad avere un servizio di banda larga differenziato fra i grandi centri e le piccole periferie, con quei dati che dava lei, quindi con un significativo digital divide, come si suol dire. Questo può essere colmato, sarà colmato necessariamente, perché non si può fare a meno. Oggi tutti i dati vengono passati attraverso la banda, non c'è niente da fare. Oggi nessuno più manda i fax o manda i dati per posta, tutti i dati passano per internet. Quindi la mancanza della banda larga per le aziende può rappresentare veramente un limite alla propria espansione. Questo, certo, è il motivo, per esempio, perché noi abbiamo delle reti dedicate alla Prysmian che collegano i vari stabilimenti e le varie unità in tutto il mondo, e dove minimo il servizio è 100 mega. Ma già vediamo in certi paesi, quelli più avanzati chiaramente, come gli Stati Uniti, dove si parla già di servizio a 1 gigabyte al secondo. Quindi stiamo parlando di uno scalino ulteriore che sta cominciando a diffondersi. Senta, a me colpisce molto questo fatto che voi siete una grande azienda senza un padrone. Allora, un manager, un amministratore delegato, come fa senza un padrone? Deve fare il suo lavoro, deve farlo bene, dopodiché gli azionisti lo seguono. Se gli azionisti non lo seguono è perché non fa le cose fatte bene. Cioè, si aggiunge un'ulteriore complessità, perché oltre a eseguire una direzione, invece di eseguire una direzione di marcia data dalla proprietà, il top management deve proporre una direzione di marcia alla proprietà diffusa, è così? Esattamente. Ma da una parte è più difficile, perché io ho a che fare con tantissimi azionisti, dei quali diciamo i primi 30 rappresentano una quota importante della società, certo, ma non così importante, e cambiano. Questo è l'altro aspetto, che possono cambiare anche dalla mattina alla sera. Un fondo di investimento che prende ed esce dalla compagine azionaria ti cambia riferimenti. Vabbè, bisogna costantemente monitorare, costantemente seguire gli azionisti, dargli soddisfazione, e i problemi non esistono. Per quanto riguarda la direzione strategica della società, questa la decide il management e non la decide l'azionista di riferimento. L'azionista di riferimento. Ecco, che è positivo per certi aspetti. E poi c'è anche il vantaggio che se aveste bisogno di capitale potete chiederlo al mercato senza che nessuno vi ponga il problema di diluirsi. Diciamo, più che nessuno, tutti si possono porre il problema di diluirsi, ma se è nell'interesse dell'azienda e quindi del loro investimento, lo seguono. Mentre un azionista singolo che detenga una quota di maggioranza importante della società, chiaramente se non ha il capitale o non ha il desiderio di seguire l'aumento di capitale, tende a bloccarlo, perché altrimenti lui chiaramente perde il controllo. Ecco, come andrà il 2015 di Prysmian? Posso parlare dei primi 6 mesi? I primi 6 mesi avete visto i risultati, sono andati bene. Tra le altre cose abbiamo risolto completamente i problemi che abbiamo avuto sul Western Link nel 2014, uh-huh, anche se io sono sempre cauto, uh-huh, e quel problema lì sarà risolto solo quando l'impianto sarà finito di essere installato e funzionante, quindi stiamo parlando di anno prossimo, però abbiamo ripreso la tabella di marcia. E quindi andrà meglio del 2014? Come 2015, linea di tendenza? Già il primo semestre è andato decisamente meglio. Penso che chiuderà tutto l'anno decisamente meglio del 2014. Ottimo, la ringrazio. Grazie a voi. Siamo al termine della seconda e ultima puntata di questa settimana di Fabbrica 2.4, Viaggio nell'industria che cambia. Mi auguro che i temi che abbiamo trattato siano stati di vostro interesse. Per ogni vostra considerazione, ogni vostra osservazione, ogni vostra richiesta di temi che vi piacerebbe ascoltare, anche di personaggi che vi piacerebbe sentire, potete scrivere a fabbrica@radio24.it. Arrivederci a sabato prossimo alle ore 14.